Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto. Riprendiamo il nostro percorso sugli Atti degli Apostoli. Stiamo praticamente leggendo e commentando insieme i capitoli che sono particolarmente significativi nella narrazione di Luca, perché caratterizzano l'apertura della comunità delle origini al mondo, il momento in cui sotto la spinta dello Spirito la prima comunità cristiana si è aperta al mondo pagano. Ecco, questa sera la nostra riflessione sosterrà sul capitolo che tocca il momento della rivelazione di Pietro a Cesarea. Ecco, spesso quando si riflette sui primi capitoli degli Atti degli Apostoli ci si sofferma molto su quella che viene chiamata la conversione di Paolo, la rivelazione sulla via di Damasco, dimenticando che nel piano narrativo di Luca i momenti di conversione toccano i due grandi pilastri dell'esperienza cristiana, le due colonne della Chiesa, Saulo da un lato ma Pietro anche dall'altro. E è interessante notare come in entrambi i casi il racconto degli Atti degli Apostoli riporti l'episodio per ben tre volte. Nel caso della conversione o rivelazione di Saulo sulla via di Damasco viene riportata in tre capitoli diversi, al capitolo 9 per bocca di Luca, al capitolo 22 e al capitolo 26 per bocca di Paolo, che racconta la sua esperienza. Lo stesso però avviene nel caso della conversione di Pietro o la rivelazione, meglio definita, la rivelazione di Cesarea. Anche questa viene narrata tre volte, due volte al capitolo 10 e una al capitolo 11. Ancora una volta la prima viene narrata dal narratore, dall'agiografo, da Luca, le altre due da Cornelio e da Pietro. Ora, là sotto il fatto che il narratore riprenda per tre volte questo episodio è significativo, perché ci fa capire che l'apertura al mondo pagano, l'apertura della Chiesa alle genti non solo non è un fatto scontato, ma è un fatto fondamentale dell'identità cristiana. Ecco, prima di leggere il testo vi invito a invocare nel silenzio del vostro cuore insieme a me il dono dello Spirito Santo, perché la lettura della parola di Dio possa illuminare la nostra vita, non solo fermarsi a livello della testa. E permettetemi di trasformare un po' anche questa nostra puntata, questo nostro appuntamento in un motivo di ringraziamento. Pensate, oggi, esattamente 100 anni fa, il 15 giugno del 1915, venivano fondate le Figlie di San Paolo, le cosiddette Paoline, dal mio stesso fondatore, da Don Giacomo Alberione. Esattamente un anno dopo la fondazione di Noi Paolini, Società San Paolo, l'anno dopo, il 15 giugno del 1915, Don Giacomo Alberione fondava le Figlie di San Paolo. Quindi oggi è considerato il Dies Natalis. Quindi con questa mia trasmissione in cui si medita l'apertura della Chiesa alle genti, ringrazio proprio il Signore per il dono di queste sorelle che portando l'annuncio del Vangelo con i media, condividendo quindi il nostro carisma, il carisma di Noi Paolini, contribuiscono a rendere attuale questo passo della Chiesa delle origini. Ecco, il brano su cui ci soffermeremo oggi è un brano abbastanza esteso, proprio perché per comprenderlo va letto nella sua globalità. Quindi leggeremo diversi passaggi dei capitoli tra 10 e 11 degli Atti degli Apostoli. Quanti di voi lo possono fare, quanti soprattutto non sono in viaggio, invito di prendere sempre un'edizione del Nuovo Testamento, meglio sarebbe dell'intera Bibbia, di averlo davanti a sé e di aprirlo al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. ma cominciamo subito leggendo la prima porzione di testo. Tenete presente una cosa, io stasera nella rilettura di questo brano sceglierò una prospettiva particolare e precisa, cioè vorrei mettere in evidenza come l'Apostolo Pietro, a cui il Signore aveva affidato la Chiesa delle origini, va incontro in questo brano a tutta una serie di esitazioni. Vedremo come è lo Spirito stesso che aiuta Pietro ad abbandonare lentamente queste esitazioni per consegnarsi a quella che è la volontà di Dio, l'opera voluta da Dio. Ecco, queste esitazioni noi non le dobbiamo cogliere come elementi negativi, ombre che si stendono sulla figura di Pietro, ma dobbiamo coglierle invece come aspetti che mettono ancora più in evidenza come il percorso della Chiesa cristiana è un percorso guidato dallo Spirito Santo. E questo Spirito Santo plasma in progressione, progressivamente, lentamente, i suoi apostoli. Ecco, la grandezza di Pietro sta proprio quella nel lasciarsi plasmare, diremmo lasciarsi educare, nel senso quasi etimologico del termine, cioè lasciar tirar fuori dallo spirito, dalla sua persona, lo spirito tira fuori dalla persona di Pietro quello che è il disegno di Dio. La grandezza di questo apostolo sta nella sua duttilità, nella sua capacità di lasciarsi plasmare dallo spirito. Ma entriamo subito nella lettura del testo. Siamo al capitolo 10, la prima porzione di testo che leggo copre i primi 23 versetti. Vi era a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte detta italica. Era religioso e timorato di Dio, con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo, Cornelio. Egli lo guardò e, preso da timore, disse, «Che c'è, Signore?» Gli rispose, «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio, ed egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto Pietro. Egli ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare. Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un soggetto che scendeva simile a una grande tovaglia calata a terra per i quattro capi. In essa c'erano ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva, «Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!» Ma Pietro rispose, «Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano e di impuro». E la voce di nuovo a lui, «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Questo accadde per tre volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato in cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco gli uomini inviati da Cornelio. Dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono all'ingresso. Chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse, «Ecco, tre uomini ti cercano. Alzati, scendi e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati». Pietro scese incontro a quegli uomini e disse, «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti?» Risposero, «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei Giudei, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli. Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Bene, questo è il brano. Notiamo subito che, diversamente da altri brani precedenti dove già si annunciava l'apertura del Vangelo al mondo pagano, qui la cornice è espressamente pagana. Il soggetto chiamato in causa è Cornelio, centurione della corte detta italica, quindi uno che apparteneva all'impero romano, che nel nome e nel lavoro che compie è espressamente un pagano. La cornice è una città pagana per eccellenza, Cesarea. Questo centurione viene però descritto come un timorato di Dio, vale a dire una persona che si affaccia al giudaismo ed è trova sentimenti di stima verso quella forma religiosa. Tra l'altro, accanto alla sua stima nei confronti del giudaismo, c'è anche un comportamento molto particolare, caratterizzato dall'elemosina, quindi da un gesto di carità verso gli altri, e dalla preghiera, dal gesto massimo di carità verso Dio. Le tre del pomeriggio costituiscono anche qua un elemento significativo, perché richiamano nella mente del lettore il momento in cui Dio, nel figlio suo Gesù, ha donato la vita per il mondo. Quindi è un momento che è particolarmente caratterizzato dalla rivelazione di Dio, perlomeno dalla rivelazione del suo amore. Ed è interessante che in questa cornice Dio ascolti da un lato la preghiera di Cornelio, dall'altro il momento della preghiera di Simone, e fa incontrare questi due destini. C'è un qualcosa di molto simile ad alcuni passaggi delle storie antico-testamentarie. Pensiamo ad esempio alla storia di Tobia e Sara. Anche in quel caso noi abbiamo due vicende molto diverse l'una dall'altra, dove però due persone, pregando in luogo diverso, vengono ascoltate da Dio, il quale si ricorda della situazione di queste due persone, di Tobi, rimasto cieco, e di Sara, che puntualmente nel momento delle nozze si trova i propri mariti rapiti da un demone malvagio e quindi resta nell'incapacità di avere dei figli, di dare un futuro soprattutto alla sua vita. Ora, le due preghiere a un certo punto vengono ascoltate da Dio, che fa congiungere questi due destini. Un'altra associazione simile è quella legata al momento dell'Esodo. Da un lato c'è un popolo che grida a Dio, dall'altro c'è Mosè che è fuggito dall'ira del faraone e che a suo modo prega Dio da un'altra parte. Le due preghiere raggiungono il cielo, Dio si ricorda del suo popolo e chiama in causa Mosè. In questo caso le affinità tra i due racconti sembrano essere più forti, cioè Pietro sembra essere in qualche modo paragonato, associato alla figura di Mosè, che è chiamato a far fare la prima comunità cristiana un passo che inciderà sulla propria identità, che è quello dell'apertura delle proprie porte al mondo pagano. Altro elemento che caratterizza la narrazione è l'elemento ternario. Non so se avete notato, ma dal racconto emerge che per tre volte, la scena della grande tovaglia che cala davanti a Pietro si ripete. Per tre volte lui dice io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro, e la voce di nuovo lui, ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accadde per tre volte. Ora, Pietro non è estraneo all'importanza di cose che succedono per tre volte nella sua vita. Noi ricordiamo, e non solo il triplice rinnegamento, ma ricordiamo anche l'episodio sul lago di Tiberiade, quando per ben tre volte Gesù gli chiede: ma mi vuoi bene? Mi ami tu? Quindi il fatto che per tre volte ancora, anche in quest'altra circostanza, in quest'altro sfondo, venga ribadita una scena del genere significa, dice, l'irruzione nuovamente del divino nella sua vita con una svolta che sarà decisiva. Accanto a questo c'è anche l'incontro che caratterizza Pietro. Quanti sono inviati da Cornelio? Sono tre persone, due suoi servitori e un soldato scelto bene perché si tratta di un uomo religioso, uno che da un lato è obbediente ma dall'altro sa anche gestire con rispetto un ordine come quello che è stato dato, perché si tratta di comunicare che un angelo santo ha dato l'ordine a Pietro di partire con gli emissari. Precisato questo contesto, teniamo anche presente dove si trova Pietro. Pietro si trova nella casa di Simone il conciatore, e la volta scorsa abbiamo precisato che questo lavoro era un lavoro anche che aveva a che fare con l'impurità, che sicuramente non era in Cesarea centro, era in Cesarea periferia, perché era un lavoro maleodorante, e questo ci dice anche che Pietro non si lascia più scalfire più di tanto dal discorso delle norme di purità, altrimenti non alloggerebbe presso un uomo che fa un lavoro del genere. In ogni caso, in questa cornice, in questo contesto, notiamo alcune esitazioni da parte dell'Apostolo. Prima esitazione, noi ne elencheremo almeno sette. La prima esitazione si manifesta nel momento della visione. Abbiamo ascoltato, una grande tovaglia scende dallo spazio sacro per eccellenza, che è il cielo, però contiene al suo interno carni di animali che sono considerati impuri. Ecco, gli elementi che permettono di distinguere la purità e l'impurità sono, è possibile verificarli a partire dal capitolo 11 del libro del Levitico. E qua dobbiamo noi tenere ben presente che tutta la legislazione contenente la purità rituale si sviluppa in un momento molto particolare della storia di Israele. Israele si trova in esilio per distinguere se stesso nella propria identità dai popoli pagani. Cosa fa? Comincia a praticare in modo più forte alcune scelte di vita che permettano alla comunità in esilio di mantenere la propria identità. Ed è in questo contesto che sembra maturare tutta la legislazione sulla purità rituale. Leggiamo a titolo di esempio un passaggio di Levitico 11, dove proprio vengono menzionati tra i diversi animali proprio gli esseri che strisciano. Così dice questo passaggio, siamo al capitolo 11 di Levitico, i versetti 41-47. Ogni essere che striscia sulla terra sarà obbrobrioso, non se ne mangerà. Di tutti gli animali che strisciano sulla terra non ne mangerete alcuno che cammini sul ventre o cammini con quattro piedi o con molti piedi, poiché saranno obbrobriosi. Non rendete le vostre persone contaminate con alcuno di questi animali che strisciano. Non rendetevi impuri con essi e non diventate a causa loro impuri, poiché io sono il Signore vostro Dio. Santificatevi dunque, siate santi, perché io sono santo. Non rendete impure le vostre persone con alcuni di questi animali che strisciano per terra, poiché io sono il Signore, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto per essere il vostro Dio. Siate dunque santi, perché io sono santo. Ecco, vedete, le indicazioni che emergono dalla legislazione del Levitico sono molto forti, si appellano alla santità di Dio. E a questa santità di Dio uniscono gli elementi da osservare, i punti di osservanza per i fedeli. Ovvio che davanti a questa tovaglia che scende, Pietro ha la prima esitazione, dice no, non sia mai, io non ho mai mangiato nulla di impuro. Ma va tenuta presente anche una cosa, Luca scrive quando la comunità cristiana è già formata, Luca scrive diversi anni dopo gli eventi che racconta, e uno dei problemi che sono motivo di tensione all'interno delle comunità cristiane è proprio la questione della mensa. Quando Luca scrive, la comunità è già composta da pagani convertiti e da ebrei convertiti che hanno aderito al cristianesimo. Il problema però qual è? di questa convivenza è che a volte gli uni non si fidano dei cibi portati dagli altri, soprattutto quelli che provengono dal giudaismo non si fidano dei cibi portati dai pagani, perché temono che magari tra quello che loro portano ci sia qualcosa di impuro. Ad esempio temono che i pagani portino alla mensa della carne che non sia stata macellata secondo le regole o che magari provenga da mercati che prendono le carni dei sacrifici idolatrici, considerati impuri. Ecco perché la questione che qui viene sollevata nel momento in cui i pagani saranno aggregati alla prima comunità, accolti nella prima comunità cristiana, ha a che fare con le norme di purità, perché queste saranno motivo di divisione. Ora, la voce dice a Simone di andare oltre a queste norme, quindi Pietro ha qui la prima esitazione. Seconda esitazione, la visione non convince più di tanto Pietro, che ci viene descritto bloccato e perplesso a riflettere sul suo senso, anche se per ben tre volte la voce gli dice non considerate impuro ciò che Dio ha purificato. E a questo punto il testo ci dice che interviene lo Spirito in persona dicendogli tre uomini ti cercano, alzati, scendi e va con loro senza esitare perché io li ho mandati. Allora qui è molto importante soffermarsi sull'inciso senza esitare, perché quell'inciso traduce un greco che se noi dovessimo tradurre alla lettera dovremmo rendere con va con loro senza sollevare alcuna domanda, cioè lo Spirito dà un incarico imperativo deciso a Pietro, va con loro senza esitare, senza sollevare interrogativi. Il verbo che viene utilizzato in greco evoca l'atteggiamento interiore del dubbio, dell'esitazione, dell'incertezza. E se noi vediamo le sue ricorrenze negli altri testi del Nuovo Testamento, notiamo che non sono ricorrenze positive. Però l'invito dello Spirito, vedremo, non è sufficiente per vincere i timori di Pietro, perché appena si trova di fronte ai tre ospiti, la prima cosa che fa, che cos'è? Solleva la domanda, per quale motivo siete qui? Lo Spirito di fatto aveva già risposto a questa domanda, aveva detto io li ho mandati. Pietro però esita e pone la domanda, cioè ha bisogno di una sicurezza in più, e siamo alla seconda esitazione. Seconda esitazione, ne segue una terza, e la terza sta nel fatto che lo Spirito gli aveva detto va con loro senza esitare e invece Pietro non va con loro. Pietro li fece entrare e li ospitò. Pietro prende tempo, ci vuole dormire sopra, ci vuole dormire sopra, e quindi è vero che questi hanno fatto tutta la strada, saranno affaticati, hanno bisogno probabilmente di ristorarsi un pochino, però lo Spirito era stato molto chiaro nell'espressione, gli aveva detto di andare con loro, non di fermarsi a dormire, non di fermarsi a esitare. Quindi qua abbiamo la terza esitazione, c'è una mancanza di sollecitudine, c'è la mancanza di quel subito che aveva caratterizzato l'esperienza della chiamata dei primi discepoli. Se voi ricordate, la chiamata dei primi discepoli da parte di Gesù è evidenziata in tutti i Vangeli con un subito, subito lasciate le reti, lo seguirono, nessuno ci dorme sopra prima di partire. In questo caso invece non avviene così. Quindi tre esitazioni di Pietro abbiamo già visto ed ora faremo un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi possa rileggere questo brano. Tre esitazioni di Pietro. La prima, il dubbio di fronte alla visione che ha avuto nonostante l'abbia vista tre volte. Il secondo, la domanda, lo Spirito gli aveva detto di non fare domande e lui fa subito una domanda. La terza, il tempo. Pietro prende tempo e ci dorme sopra. A queste esitazioni però, noteremo, se ne aggiungono subito delle altre. Ma lasciamo un breve stacco musicale in modo che ci sia la possibilità di rileggere questo testo e poi continueremo con la narrazione. Ecco, dopo aver visto le prime tre citazioni di Pietro, vediamo come continua il brano. Leggiamo i versetti dal 23 al 33. Il giorno seguente, parto le prime tre citazioni di Pietro, vediamo come continua il brano. Leggiamo i versetti dal 23 al 33. Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, anche io sono un uomo». Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: «Voi sapete che a un giudeo non è lecito avere contatti o recarsi da stranieri, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque, per quale ragione mi avete mandato a chiamare?» Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare. Subito ho mandato a chiamarti, e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque, noi siamo qui riuniti, al cospetto di Dio, per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato». Allora, è molto, molto bello, molto significativo notare come il narratore racconta l'incontro tra Pietro e Cornelio. È uno degli incontri più belli e più profondi di tutto il Nuovo Testamento, perché Luca riprende in modo davvero abile gli elementi che hanno caratterizzato l'incontro tra Pietro e Gesù. Se voi andate a rileggere l'episodio di Luca 5, in cui viene narrato l'incontro tra Gesù e Pietro, noterete che alcuni aspetti, alcuni elementi ritornano in questo brano, come se Gesù stesse facendo rivivere la stessa scena a Cornelio e stesse facendo fare memoria a Pietro, quasi a dire: ciò che tu hai ricevuto gratuitamente, gratuitamente ora donalo a Cornelio. Come io ho accolto te, tu accogli lui. Come io ho scelto te come messaggero del lieto annuncio, tu ora scegli Cornelio, accogli Cornelio e la sua famiglia come messaggero del lieto annuncio. Il racconto della vocazione di Pietro nei Vangeli, nel Vangelo di Luca, ha degli aspetti che non ci sono negli altri Vangeli. E il fatto che Luca sia lo stesso narratore degli Atti degli Apostoli rende questo significativo. Al capitolo 5 del Vangelo di Luca c'è questa particolarità nell'incontro tra Gesù e Pietro. Il testo dice: dopo la pesca miracolosa, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù. Ecco, lo stesso gesto che compie Cornelio, dicendo: Signore, allontanati da me perché sono peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ora avviene qualcosa di simile. Pietro, che arriva con alcuni emissari da Giaffa, che lo accompagnano, si trova stupito di fronte al gesto di Cornelio. Non solo, ma subito dopo si trova che Cornelio ha invitato una marea di persone a quel momento, oltre ai suoi familiari. Se voi andate a leggere il capitolo 5 di Luca, notate che subito dopo la chiamata di Pietro, dove Gesù lo porta ad un incontro con un pubblicano, Zaccheo, e non solo, ma Zaccheo li invita a pranzo, e quando Gesù arriva trovò molta gente radunata, dice Luca, proprio come Cornelio, che aveva convocato i suoi parenti e i suoi amici intimi. E il momento del banchetto in casa di Levi, subito dopo la chiamata di Pietro, è il primo momento critico per i discepoli, perché i farisei, sibillini, si presentano non a Gesù, ma ai suoi discepoli, quindi a Pietro, e gli dicono: ma come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? Ora, Pietro si trova a entrare nella casa di pagani, e questo non è indifferente, soprattutto per le persone che stanno con lui. Tra l'altro, anche questo merita di essere sottolineato, perché rappresenta una esitazione di Pietro. Il testo dice che il giorno seguente, dopo averci dormito sopra, partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Ma se noi stiamo attenti all'indicazione che è venuta dallo Spirito Santo, lo Spirito ha chiesto a Pietro di andare lui, non ha detto di portarsi con sé delle persone. È vero che le persone potevano essere poi dei testimoni, avevano la funzione del testimone di quello che poteva succedere, altrimenti chi è che assisteva ai prodigi che venivano dall'altro, chi poteva aiutare Pietro a fare discernimento? Alcuni la spiegano così, la scelta di Pietro di portarsi alcuni con sé. Sta di fatto che queste persone creeranno non pochi problemi, e sta di fatto che lo Spirito ha chiesto a Pietro di andare a Cesarea, non di portarsi altri con sé. Quindi troviamo qui un elemento di ulteriore esitazione da parte di Pietro. Pietro porta con sé delle persone che possano fare da garanti, e Dio, il Signore, il risorto, cerca di vincere le esitazioni di Pietro aiutandolo a fare memoria di quello che lui ha vissuto. La gratuità che lui ha vissuto sul lago di Tiberiade, è giunto il momento di condividerla con altre persone. E vediamo come di fronte a questa scena che sorprende Simone, perché si trova davanti a sé tutta una famiglia pagana, gli amici di una famiglia pagana pronti ad accoglierlo, vediamo come Pietro reagisce. Allora ascoltiamo di nuovo il testo, sono i versetti 34-48. Pietro allora prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo hanno ucciso appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dei morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? e ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Ecco, notiamo che di fronte alla scena dell'incontro, dove Pietro viene tra l'altro sollecitato a tenere un discorso, Pietro apre con il discorso. Anche qua notiamo che questo è il primo discorso che Pietro tiene dopo l'episodio di Atti 6. In quell'episodio di Atti 6, dove vengono istituiti i sette diaconi, quelli che noi chiamiamo i sette diaconi della prima comunità cristiana, Pietro aveva fatto un intervento che poi viene sconfessato nei capitoli successivi. Noi qui siamo al capitolo 10. Al capitolo 6, quando lui sceglie le sette persone poste al servizio delle comunità cristiane, dice: voi vi interessate della distribuzione delle mense, il servizio delle mense. Noi, inteso io e gli altri apostoli, ci dedichiamo all'annuncio della parola. Cosa succede però? Succede l'opposto, cioè lo Spirito, anche se Pietro ha definito il suo piano di lavoro, lo Spirito ne ha un altro, per cui gli annunciatori della parola diventano i sette, diventa Stefano, che avrà un'incidenza non indifferente, diventa Filippo, che ha un'altra incidenza non indifferente, mentre Pietro non parla più. I capitoli precedenti teneva dei discorsi lunghi. Dal capitolo 6 in poi non tiene più nessun discorso. Questo è il primo discorso che tiene dopo il capitolo 6 ed è un discorso che viene interrotto. Pietro ha iniziato evocando il disegno di Dio, dimostrando da un lato l'apertura verso il mondo pagano, ma dall'altro sottolineando la priorità di Israele. Dice che il Signore è venuto per tutti, però ha affidato il Vangelo solo ad alcuni di loro, si richiama ai profeti, insomma sta iniziando una lunga catechesi dove vuole porre dei distinguo. Questa catechesi viene interrotta dallo Spirito Santo, viene proprio interrotta, e nel racconto di Pietro che ascolteremo subito dopo vedremo come Pietro vive questa interruzione dello Spirito Santo, cioè lo vive probabilmente anche con un certo senso di disagio. E accanto all'interruzione dello Spirito che lascia letteralmente senza parola a Pietro, c'è lo stupore non è positivo, di coloro che sono venuti con lui, che si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo e li sentivano parlare in lingue. Qui è una vera e propria Pentecoste, e di fronte all'evidenza Pietro lascia cadere le esitazioni e invoca lo Spirito Santo su di loro. Ordina che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. E poi però i presenti a Cesarea gli chiedono un gesto concreto di accoglienza, lo invitano a fermarsi alcuni giorni e Pietro si fermerà. Qual è la quinta esitazione quindi che si nota in questo brano? È l'esitazione delle parole. Questo discorso che prende letteralmente alla larga la prima catechesi alla comunità pagana e che sembra venire interrotto in modo deciso dallo Spirito Santo. Ecco, lasciamo ancora un breve stacco musicale prima di concludere con il brano conclusivo, vale a dire quello dei 18 versetti del capitolo 11. Per vedere come la situazione a un certo punto si snoda e quale tipo di frutto va a provocare. Allora, breve stacco musicale, dopodiché riprendiamo col capitolo 11. Allora, dopo abbiamo visto un po' di esitazioni di Pietro in questo episodio, le sintetizzo un attimo in modo da richiamare il percorso narrativo che abbiamo fatto. La prima esitazione è la perplessità di fronte alla visione della grande tovaglia, poi la seconda esitazione è il fatto di porre domande agli inviati di Cornelio quando lo Spirito gli aveva detto non porre domande, non esitare, il fatto di dormirci sopra. Il fatto di portare con sé altre persone quando invece lo Spirito gli aveva rivolto l'invito esclusivamente a lui, il momento di esitazione che si trova proprio sulla soglia di casa di Cornelio, per entrare da Cornelio, soprattutto di fronte a questa figura che si prostra davanti a Pietro e che lo Spirito vince facendo memoria della vocazione di Pietro, e poi questo discorso che la prende alla larga e che viene interrotto dallo Spirito Santo, cioè ogni volta lo Spirito Santo guarisce le esitazioni di Pietro e invita Pietro a rimettersi sulla lunghezza d'onda della sua volontà. Vediamo cosa succede dopo, perché avevamo visto che Cornelio invita Pietro a sostare alcuni giorni, Pietro accetta, ma a Gerusalemme succede qualcosa. Ascoltiamo di nuovo il testo, siamo ora al capitolo 11. Gli apostoli, i fratelli che stavano in Giudea, vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicendo: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. Allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine, dicendo: mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione, un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia calata per i quattro capi, che giunse fino a me. Fissandola con attenzione osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili, uccelli del cielo. Sentì anche una voce che mi diceva: coraggio, Pietro, uccidi e mangia. Io dissi: non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca. Nuovamente la voce del cielo riprese: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. E questo accadde per 3 volte, poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell'istante, 3 uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi 6 fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Giaffa, fa venire Simone detto Pietro, egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi sarete battezzati Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per avere creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque, anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Ecco, notate, qui siamo di fronte all'ultima delle esitazioni che non ha a che fare con Pietro, ma ha a che fare con la comunità cristiana di cui lui è pastore. La comunità cristiana, appena Pietro torna, solleva gli scudi: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. Ora viene spontaneo dirsi: ma chi è che è andato a dire alla comunità di Gerusalemme quello che è successo? Se Pietro era a Cesarea, chi è che è corso a Gerusalemme a portare l'annuncio? In fondo lui è andato a Cesarea, a Cesarea c'erano solo la famiglia di Cornelio, non è che c'erano altri. Chi ha saputo che lui si è fermato in casa con loro e ha mangiato insieme con loro? Sicuramente sono alcuni, uno, basta uno, delle persone che Pietro ha portato con sé. È tanto vero che li menzionerà Questi sei fratelli non se n'era portato uno o due, bastavano due testimoni, se ne porta ben sei. Però qualcuno gli deve aver giocato un tiro mancino. Ed ecco che c'è il sollevamento di scudi quando arriva a Gerusalemme e Pietro si trova nella necessità di giustificare tutto quello che è successo. Notiamo l'eleganza del racconto di Pietro. Pietro racconta per filo e per segno quello che è successo. Mette in evidenza persino le sue esitazioni, il dubbio di fronte alla visione, il fatto di essere partito con loro, però ecco, con una certa incertezza, il fatto di aver portato con sé i sei fratelli, il fatto che aveva appena iniziato a parlare quando lo Spirito è sceso, cioè non gli è stato dato il tempo nemmeno di fare un'intera catechesi. E poi la memoria. Pietro richiama alla memoria non solo la sua vocazione, ma anche quello che Gesù aveva insegnato: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati dallo Spirito Santo. E disarmato dice: chi ero io per porre impedimento a Dio? Cioè, Pietro emerge qui nella sua figura più alta, cioè colui che si riconosce strumento di un disegno che è più grande di lui e che avrà un'incidenza enorme sulla prima comunità cristiana, quella di cambiarne l'identità. Ed è proprio grazie a questa sua docilità che la Chiesa prenderà una svolta decisiva. Dietro questo racconto, che è un vero e proprio racconto di conversione e di rivelazione, al centro degli Atti degli Apostoli noi non troviamo solo la conversione o la rivelazione di Saulo, ma la conversione e la rivelazione di Pietro. Ecco, dietro questo racconto ciò che è importante rilevare è lo stile pedagogico dello Spirito Santo. Lo Spirito non interviene con violenza, ma spinge l'Apostolo a fare un passo dopo l'altro, chiarendo di volta in volta il senso delle cose. Chiarisce prima la visione, poi invita Pietro ad accogliere i tre messaggeri di Cornelio, poi invita lui stesso in prima persona a varcare la soglia della casa pagana, a quel punto viene spinto ad annunciare la buona novella e di fronte alla presenza evidente dello Spirito Santo si sente in dovere di amministrare il battesimo. Quindi è chiamato a dare piena testimonianza del solco che lo Spirito si è scavato alla comunità di Gerusalemme. È la logica di un passo tira l'altro. E la grandezza di Pietro sta nella capacità di percorrere quel pezzo di strada con la luce necessaria che il Signore accende in quel momento. E notiamo, e come amava ripetere il mio fondatore, il Beato Giacomo Alberione, e questo lo dico proprio in sintonia con il centenario delle paoline che evocavo all'inizio, il fondatore nostro diceva sempre: il Signore non accende tutte le luci in una volta sola, ne accende una per volta e ti illumina il tratto di strada che sta davanti a te e che tu devi percorrere in quel momento. Ti chiede non una fiducia, un abbandono sconfinato per fare chissà che cosa, ti chiede l'abbandono necessario per fare quel pezzo di strada, quel tratto che lui illumina in quel momento. E così è stato per Pietro. La grandezza di Pietro sta nel fatto di riuscire a superare le sue esitazioni e a compiere quel pezzo di strada. Ed è quello che ci auguriamo l'un l'altro. Bene, cari ascoltatori, abbiamo terminato la parte più di riflessione o meditazione mia, adesso entrate in scena voi. Come sempre ripeto, la parte delle domande è parte integrante della nostra trasmissione, del nostro approfondimento, ed è preziosa, perché attraverso le domande a volte si colgono alcune sfumature inedite che sono sfuggite per forza di cose nella meditazione, soprattutto quando ci si trova un po' a leggere per avere un quadro globale testi un pochino lunghi come quelli che abbiamo letto e commentato questa sera. Quindi lascio spazio alla regia che vi darà indicazioni su come raggiungermi in trasmissione e poi resto in attesa dei vostri interventi. Pronto, ciao, buonasera. Buonasera padre, grazie per la stupenda catechesi. Io sono Maria da Messina e sono al lavoro, come sempre ogni volta l'ascolto dal lavoro e non ho una Bibbia con me, ma mi ha colpito, le sue catechesi sono tutte bellissime, la ringrazio tanto. Questa domanda che le volevo fare, mi ha colpito che Cornelio pregava la preghiera delle tre, volevo chiedere che preghiera era, lui era già pervenuto alla fede, non so, da qualche viaggio di San Paolo o era una comunità nata spontaneamente dopo la morte di Gesù? E che preghiera facevano alle tre? Pregavano come noi, diciamo, simile, diciamo, alla commemorazione della morte di Gesù? O era una preghiera ebraica diversa? Cioè, lui erano pagani, quindi immagino che erano tipo romani, non so, ma questa preghiera che loro facevano, l'avevano appresa da qualcun altro prima o era una cosa loro spontanea? E come, cioè, ho capito che loro desideravano diventare completamente cristiani, no? Entrare completamente nella comunità degli apostoli, come seguaci, insomma, come seguaci di Gesù. Ma e loro come avevano cominciato a praticare? Cioè, non so se lei può spiegarmelo questo. Questa certo, è la cosa che mi ha colpito tanto. E mi ha colpito giustamente, e San Pietro era agli inizi del suo ministero e quindi ancora non sapeva bene quando pensava di poter mettere dei paletti allo Spirito Santo, ma come lei ha spiegato molto bene, lo Spirito Santo ci guida passo passo e questa cosa veramente mi ha toccato perché la sento pure io nella mia vita, che lo Spirito Santo ci guida piano piano, secondo le nostre forze, secondo quello che noi sappiamo corrispondere al Signore di volta in volta, finché non ci porta dove vuole Lui, che è per il nostro bene. Ecco, le volevo chiedere questo. Grazie, grazie, spero che continui fino a luglio, non so quando continuerà tutta la... ma le aspetto sempre le sue catechesi. Grazie, grazie a Radio Maria e buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie di cuore signora Maria per la sua domanda. Allora, facciamo alcune precisazioni, no? Prima di tutto, Cornelio nel momento in cui incontra Pietro non è cristiano, è un pagano che guarda con una certa stima la religione ebraica, quindi è un soldato romano che è venuto a contatto con la forma di fede comunicata dall'ebraismo e sente che lì c'è un percorso di verità per la sua vita, quindi assolutamente lui non è cristiano. Ora, nella tradizione ebraica c'erano già i momenti di preghiera della giornata legati soprattutto ai sacrifici che venivano compiuti al Tempio ed erano dei momenti di ringraziamento, uno al mattino, uno a mezzogiorno e uno era la cosiddetta offerta della sera. Ecco, l'orario poteva variare e corrispondevano un pochino a quelle che sono le nostre ore medie, le 9, mezzogiorno e le 3 del pomeriggio. Ovviamente poi nella tradizione cristiana questi hanno assunto un valore, cristologico, per cui noi associamo le 9 del mattino al dono dello Spirito perché è l'orario in cui viene contestualizzata in genere la Pentecoste, il mezzogiorno al momento massimo della rivelazione, in genere al momento dell'Angelus dove il divino irrompe sulla terra, e le tre il momento del dono massimo di Gesù sulla croce. Queste sono le riletture cristologiche, però è chiaro che Cornelio non poteva viverle in questo modo, però cercava di aderire, esprimere la propria fede nel Dio unico secondo le modalità che l'ebraismo gli indicava. Ora il Signore Dio apprezza questa buona volontà che oltre alla preghiera è caratterizzata dall'elemosina, quindi dall'attenzione agli altri. Cornelio quindi vive il comandamento fondamentale della legge dell'amore a Dio e dell'amore al prossimo e quindi e compie questa sua ricerca profonda della verità di Dio con l'annuncio di Pietro. Quindi la cosa bella, la cosa significativa è questo, cioè l'annuncio di Pietro va a completare una ricerca che già abita il cuore di Cornelio e che si esprime in questa stima particolare per la religiosità ebraica. L'ebraismo diventa la via privilegiata, il canale più adatto per portare alla pienezza della fede il percorso di Cornelio. Quello che è significativo, che è importante, è che in questo caso Cornelio diventa cristiano senza dover passare per la circoncisione. Questo è ciò che è inedito all'interno del percorso della prima comunità cristiana. La prima comunità cristiana fino a questo momento non ha ancora avuto figure che non circoncise al suo interno. Quindi l'accoglienza di Cornelio comincia a sollevare degli interrogativi. Quello che la comunità di Gerusalemme denuncerà a Pietro è il fatto che lui è entrato in casa di persone non circoncise e ha pranzato con loro, ma non solo, ha dato loro il battesimo. Ecco, questa suddivisione che era caratterizzata, forte, anche nella zona del Tempio, che era il luogo ovviamente sacro per eccellenza, l'emblema del popolo ebraico, era espressa anche fisicamente, cioè nel Tempio c'erano delle barriere oltre le quali i pagani non potevano entrare, dove potevano entrare solo gli ebrei, gli incirconcisi non potevano entrare perché rendevano impuro lo spazio sacro se entravano gli incirconcisi. Ora Pietro compie un passo che è davvero enorme, che è quello di accogliere un non circonciso nella comunità cristiana senza farlo passare dalla legge ebraica, e questa è una cosa molto molto grossa. Quindi la ringrazio Maria per la sua domanda, che ci fa capire come questo capitolo degli Atti degli Apostoli è davvero un passaggio fondamentale nel cammino della comunità cristiana. Grazie. Pronto? Sì, buonasera padre. Buonasera. Intanto mi chiamo Alessandro, telefono da Firenze. Le voglio fare due domande. La prima è un'osservazione riguardo, l'ho ascoltata fin dall'inizio, sul capitolo 11 in particolare, cioè c'è sempre qualche personaggio solerte del gruppo che vuole sempre, mettere in discussione a volte anche l'operato del Signore, no? Ma questa è solo un'osservazione, siamo sempre animati da tanta fede o da tanta solerzia, e poi a volte ci capita di scavolare proprio il cammino del Signore, ma questa era più un'osservazione. Invece volevo farle una domanda specifica riguardo proprio al fatto che il Signore, San Michelangelo, dice che non devi chiamare ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo immondo, questo versetto, capitolo 10, versetto 15. Ecco, volevo chiederle, ma qui si tratta, è qui che volevo un approfondimento perché non ho capito bene, si tratta di animali, quindi lei ha fatto riferimento giustamente al Levitico, sono animali immondi che Pietro non ha mai mangiato, però in questo contesto, cioè più che gli animali, in questo caso è accettare i pagani. Volevo chiedere un approfondimento fra questo accostamento, fra ciò che si mangia, diciamo così, che sono i cibi proibiti, e invece accogliere i pagani, cioè aprirsi alla Chiesa che si apre ai pagani. Ecco, questa visione, perché il Signore ha usato questa visione, non è immediata, cioè di immediato mi sembrava a me che fosse immediato, un togliere i cibi immondi dalla prescrizione, perché c'è scritto che sono stati ciò che sono stati purificati. Ecco, qui ho qualche dubbio, se lei potesse chiarire le sarei grato. D'accordo Alessandro. Allora, prima di tutto grazie per la tua domanda, perché la tua domanda tocca un nodo fondamentale. Allora, la questione delle mense nella prima comunità cristiana è una questione scottante. Ecco, è una questione scottante da diversi punti di vista, perché lì si gioca la comunione della comunità cristiana. Se noi andiamo a leggere brani come la lettera ai Galati, che tra l'altro è una testimonianza molto più antica rispetto a quella degli Atti degli Apostoli, notiamo che sulla questione delle mense si gioca un momento criticissimo della prima comunità cristiana, si gioca la comunione della prima comunità cristiana. Ad Antiochia Pietro e Paolo rompono il loro rapporto a motivo delle mense, perché attorno all'unica mensa Pietro decide di creare due mense distinte, una per i giudei convertiti al cristianesimo e una per i pagani convertiti al cristianesimo. Paolo dice: questo è inaccettabile, io non ci sto, sbatte le porte e se ne va. Ora, perché questo? La questione è legata a tutte le norme di purità del Levitico. Le norme di purità del Levitico legano la purità rituale delle persone al cibo di cui si nutrono. Perché tanta normativa? Perché si era immersi in un contesto pagano dove la carne era l'emblema del sacrificio fatto alle divinità. Quindi gli ebrei giustamente dicevano: noi non possiamo mangiare un cibo che è stato consacrato agli idoli, perché sarebbe andare contro alla nostra fede. Quindi tengono molto a queste norme di purità. E la carne che portano i pagani per la mensa comune, dove tutto veniva messo in comune, non dava sufficienti garanzie che non provenisse dai templi pagani, perché bisogna sapere che la carne che veniva venduta al mercato era la carne che veniva sacrificata nei templi pagani. Immaginate voi una religiosità che era impostata sul sacrificio, sui sacrifici, mica tutta quella carne la potevano mangiare i sacerdoti. Allora, gli animali venivano macellati, veniva compiuto il rito, poi quelle carni venivano rivendute al mercato in modo che la gente potesse consumarla. Quindi la carne che girava era sovente carne che veniva offerta agli idoli. Ecco, questo creava difficoltà. Ora, il brano di Luca, in questi due capitoli degli Atti degli Apostoli, riprende un insegnamento di Gesù. L'insegnamento di Gesù è dove Gesù relativizza le norme di purità, ricordando ai discepoli che non è quello che entra nel ventre a contaminare l'uomo, ma quello che esce dal cuore. Quindi Gesù già aveva relativizzato questo, perché su questo erano nate tutta una serie di divisioni all'interno della comunità. Ora, ciò che crea problema nella prima comunità cristiana sono due elementi. Il primo elemento è la circoncisione. Per cui c'è tutta una discussione nella prima comunità cristiana se accogliere i pagani solo dopo la circoncisione o accoglierli senza imporre la circoncisione. E questo è il nodo che noi troviamo nel famoso concilio, assemblea di Gerusalemme, al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, proprio al centro della narrazione degli Atti. Il secondo nodo è la mensa, l'unica mensa, l'unità di mensa. Intorno all'unica mensa devono poter stare ebrei e pagani che hanno aderito a Cristo senza distinzioni, e notiamo che questo è un secondo nodo problematico. Per confermare questo ricordo la narrazione delle moltiplicazioni dei pani. Se voi ripercorrete il Vangelo di Marco, noterete che nel Vangelo di Marco, e mi sembra anche in quello di Matteo, le moltiplicazioni dei pani sono due. La prima viene in sfondo ebraico, con numeri, con i numeri ebraici avanzano, 12 ceste, L'altra viene in territorio pagano, con numeri pagani, le 7 ceste. E una viene di qua del lago, l'altra viene al di là del lago, una viene in territorio ebraico, l'altra in territorio pagano. E tutta la catechesi che Gesù porta avanti nel Vangelo di Marco è quella di creare l'unica mensa tra gli uni e gli altri, l'unico popolo di Dio tra i giudei e i pagani. E questa è una difficoltà che gli stessi apostoli fanno fatica ad accettare. Quindi su questo si gioca la sfida, e dietro le immagini di questa sfida c'è questa narrazione degli Atti degli Apostoli. È ovvio che quella tovaglia che viene calata ai quattro angoli rappresenta la mensa di tutti i popoli della terra. I quattro angoli sono i quattro punti cardinali i cibi che si trovano sulla tovaglia sono cibi puri e impuri. Pietro viene invitato a mangiare gli uni e gli altri, e a un certo punto si rifiuta, ma la voce dice: ciò che Dio ha purificato non considerarlo impuro. Quindi non è solo il discorso dell'unica mensa, è anche il discorso di tutti i popoli, sotto l'immagine simbolica della grande tovaglia, dell'unica grande tavola imbandita per tutti i popoli. Concludo dicendo che questa immagine, nella tradizione profetica, è l'immagine dei tempi messianici. La ritroviamo soprattutto nel grande banchetto del terzo Isaia, no? Attorno al capitolo 60-66 troviamo l'immagine di questo grande banchetto che Dio imbandisce con bevande inebrianti, cibi succulenti, a cui si accostano tutti i popoli. L'unico banchetto è l'emblema proprio del compimento di quell'attesa della relazione tra l'uomo e Dio. E quindi tutto questo fa da sfondo alla narrazione di questi capitoli. Grazie Alessandro per la sua domanda, perché come vedi ha toccato un elemento di snodo molto importante. Pronto? Con chi parlo? Lea dalla Calabria. Sì. Guarda, molte domande, già risposto, però io volevo chiedere una cosa. Io sono alla ricerca di Dio da una vita e mi pare di non averlo trovato. Cosa devo fare? Sì, allora è difficile, signora, poter dare una risposta su due piedi a una domanda come la sua, no? Però mi lascio un pochino ispirare, guidare dal testo che abbiamo commentato questa sera. Se lei ha ascoltato Cornelio, che era un cercatore di Dio, come probabilmente anche lei, no? Cerca Dio, sceglie in questa ricerca due modalità, due vie. La prima è quella della preghiera, e questa preghiera delle 3 del pomeriggio è anche una preghiera di affidamento a Dio, di consegna a Dio della propria giornata, delle proprie fatiche, dei propri interrogativi. La seconda è la via della carità, la via che ci porta all'incontro con l'altro, soprattutto se l'altro è più povero, se l'altro è bisognoso di attenzione. Io penso che quando uno si pone in questa duplice ottica di attenzione a Dio e di attenzione all'altro, prima o poi la risposta viene, e può venire da incontri anche inattesi, in un momento inatteso. Del resto, se riflettiamo bene, Pietro non si aspettava certamente, mentre si trovava nella casa di Simone il conciatore, che avrebbe avuto una visita che avrebbe cambiato non solo la sua vita, ma la vita della comunità cristiana, che l'avrebbe fatto posto davanti alla sua stessa comunità, la comunità di Gerusalemme, con la responsabilità di dover giustificare il suo operato, perché si è trovato di fronte a una levata di scudi. Ecco, è un semplice suggerimento che vuole essere anche molto umile, proprio perché non conosco la sua storia, signora, ma penso possa dargli un suggerimento, una pista. La ringrazio per il suo intervento. Pronto, con chi parlo? Buonasera padre, sono Ferdinando d'Avellino. Bene, mi sente? Mi dica Ferdinando, sì, la sento bene. Volevo chiederle un'informazione più che altro. Parlato prima di battesimo, volevo sapere un po' le persone battezzate, un po', cioè le persone non battezzate praticamente, che fine fanno? Se sono in grazia di Dio, oppure non so, non ricevono lo Spirito Santo, non so se ha capito bene la domanda, insomma. E poi certo, volevo chiederle giusto un'altra domanda. Siccome quando si va in chiesa si dice, non so se è riferito al suo programma praticamente, però forse può darvi una spiegazione, si dice morì sotto Sponzio Pilato e risorto il terzo giorno. Perché parla del terzo giorno, non il primo, non il secondo, insomma? E poi un'altra domanda e poi finisco. Per l'oste consacrata, quando il sacerdote ci dà l'oste consacrata, conviene prenderla dalla sua mano e non toccarla con la mano, oppure anche il diacono va bene, oppure qualcun altro? Grazie, l'ascolto per radio. Allora, la ringrazio signor Ferdinando, anche se invito gli altri ascoltatori a non prendere esempio da lei, nel senso che bisogna fare domande attinenti al tema, anche se cercherò di rispondere alle sue domande. Allora, la prima domanda riguarda il battesimo. Lei mi dice, ma che fine faranno le persone che non sono battezzate, non ricevono lo Spirito Santo, dove andranno a finire? Allora, ci sono alcune domande che restano avvolte nel mistero di Dio, ma il brano di stasera, che abbiamo cercato di commentare insieme stasera, ci fa capire come nelle pagine della scrittura noi abbiamo tra i modelli che vengono indicati dei cercatori di Dio non battezzati, e il primo di questi cercatori di Dio che poi arriva al battesimo è Cornelio. È Cornelio. Notiamo che Cornelio riceve lo Spirito Santo prima del battesimo e voi non immaginate quanti fiumi di inchiostro questa scena ha suscitato, perché ovviamente i teologi, i grandi noi, quando vogliamo riflettere sul mistero di Dio vorremmo avere tutto in ordine, quindi prima il battesimo, poi il dono dello Spirito Santo, poi l'invio in missione. Ma lo Spirito è libero, mica sta ai nostri criteri, alle nostre scalette. Ovviamente poi c'è una pedagogia nel cammino di fede che ci porta anche a dare degli elementi, però la scena di Cornelio è una scena che disorienta quello che era una prassi, disorienta prima Pietro, poi la comunità cristiana di Gerusalemme. Questo per dire che cosa? Per dire che a certe domande è difficile dare una risposta. Le persone senza battesimo dove finiranno? Certamente nel cuore di Dio. Come, in che modo raggiungeranno questo? Cosa sarà alla fine della loro vita? Questo lo sa il Signore. Ma certamente se una persona cerca Dio con tutto il cuore, è nel cuore di Dio e da questo cuore non scompare, non scomparirà mai. Seconda domanda, perché si dice nel credo che il terzo giorno risuscitò dai morti? Perché il modo di contare del mondo ebraico non è il modo di calcolare le giornate nel mondo ebraico, non è come il nostro. Noi calcoliamo la giornata dalle 0000, cioè dalla mezzanotte, fino alla mezzanotte successiva. Nel mondo ebraico non era così. Nel mondo ebraico si calcola la giornata da tramonto a tramonto. Ora, se lei fa il calcolo dal venerdì alla domenica, noterà che tra il venerdì, quando muore Gesù, alle 3, all'alba praticamente del primo giorno dopo il sabato, siamo nel terzo giorno, per questo modo di calcolare, perché il calcolo ebraico calcola dal tramonto al tramonto, quindi il venerdì è un giorno, quando Gesù muore alle 3, il sabato è il secondo giorno, perché iniziava dalle 18 del venerdì alle 18 del sabato. Il momento della risurrezione nella notte della domenica, quindi nel terzo giorno, ecco perché si dice nel terzo giorno. Terza domanda era quella dell'Eucarestia, come si deve ricevere l'Eucarestia, ma io dico una cosa, l'Eucarestia la si deve ricevere con un grande cuore riconoscente e con il senso del mistero. Quello di cui ci dobbiamo preoccupare non è tanto la mano o la bocca, ma l'apertura del cuore. Se abbiamo l'apertura del cuore, sia il gesto delle labbra, sia il gesto della mano, tutti e due approvati dalla Chiesa, con un significato che viene ben spiegato dai liturgisti in entrambi i casi, avrà un significato, altrimenti non c'è né mano né lingua che contino. L'importante è l'apertura del cuore, quindi è questo che le raccomando, signor Ferdinando. Grazie per le sue domande, ma raccomando agli altri ascoltatori di rimanere in tema. Okay, pronto? Vediamo. Buonasera, sono Gildo. Volevo chiederle solamente questo qui, l'informazione è questa. La tovaglia, scende la tovaglia. Io vedo in questo momento qui, come qualcuno mi ha fatto anche ripensare, l'uomo che arriva adesso in Europa, nel mondo, l'uomo che noi che rimaniamo perplessi, chiaramente noi a sollecitarci a dare una mano, non so se vi ho spiegato, ecco, probabilmente chissà cosa, però lui insiste, ne manda copiosamente, la tovaglia si riempie sempre, allora è un problema, no? Probabilmente per l'uomo. Però il Signore non si ferma, non so se mi ha spiegato, è questo. Poi certamente l'ascolto per radio, Don, sono anche io un cooperatore paolino, e poi tra l'altro questa icona ce l'ho, perché abbiamo fatto parte, tra l'altro, ci fu donata a Roma nel sinodo dei militari, alcuni anni fa, in San Pietro, abbiamo fatto 3 giorni, eccetera, e fu una cosa, e abbiamo un trittico che fu donato ai partecipanti al sinodale. Grazie, l'ascolto per radio. Grazie signor Cildo, quindi penso di aver capito che abbiate l'icona dell'incontro tra Pietro e Cornelio, se ho capito bene. Allora, la ringrazio per la sua domanda, perché aiuta a fare una grande attualizzazione, no, di questo episodio. Lei dice i fatti di cronaca, di attualità che stiamo vivendo con l'arrivo di tanti immigrati, no, nel nostro territorio, a casa nostra, è segno di questa tovaglia che si riempie sempre di più. Mi sembra la sua proprio una bella lettura, ed è proprio il momento in cui anche noi siamo chiamati ad attivare quei gesti che caratterizzavano Cornelio, no, nell'attenzione agli altri. La tovaglia si riempie sempre di più perché noi siamo nella possibilità di condividere. Guardi, io abito alle porte di Milano e, come sapete dai fatti di cronaca, la stazione centrale in questi giorni è stato uno dei luoghi in cui gli immigrati sono stati stazionati nel momento di decidere dove portarli, e emergeva anche da persone che conosco un racconto commosso della generosità di tanta gente. Spesso noi ci fermiamo a guardare questi fatti solo da un punto di vista e dimentichiamo che c'è tutta una solidarietà, una sensibilità che questi fatti smuovono nel cuore e che non fa notizia, e che si accostano, no? Tanta gente è andata lì in centrale a portare di persona un segno di solidarietà a queste persone che fuggono da situazioni veramente aberranti. E lo stesso a Ventimiglia. Se da una parte è scandalosa la chiusura delle frontiere, pur con tutte le giustificazioni del caso, però è scandaloso un certo atteggiamento, dall'altro ci sono tanti gesti di attenzione delle persone del posto, solo che questi non fanno notizia, si preferisce dar notizia al non bene che non al bene invece che emerge. Ecco, il Signore ci aiuti proprio davvero a rendere sempre più spaziosa la nostra tovaglia e a non creare delle barriere che lui stesso è venuto ad abbattere. Grazie signor Gildo per le sue domande. Buonasera. Pronto? Abbiamo ancora fatto un intervento, dica. Buonasera padre, io sono Giuseppe, chiamo da Palermo. Mi dica Giuseppe. Dunque, io ho ascoltato la sua catechesi, o quantomeno il pezzo, una buona parte. Ho un piccolo dubbio che mi pongo da tempo. Lei ha parlato di carni impure, che Gesù poi, rimproverando Paolo, ha detto: come fai tu a dire che sono impure se io le ho rese pure? Ma queste carni impure, che ho presumo che siano i rettili, serpenti, ma c'è anche la carne di maiale, come esiste nel Corano, perché parlava di animali a 4 zampe che strisciavano la pancia per terra. Sono ancora impure queste carni? Come ci dobbiamo orientare noi che vorremmo seguire, nel limite del possibile, le leggi del cristianesimo? Grazie padre. Allora, Giuseppe, la ringrazio della sua domanda, però la sua domanda, come dire, ci riporta un pochino indietro, no? nella spiegazione. Richiamavo prima che Gesù nell'insegnamento ai discepoli ha decisamente messo tra parentesi tutte le norme di purità e con lui il cristianesimo. Questa è stata una lotta che ha caratterizzato, una discussione molto forte che ha caratterizzato le prime generazioni cristiane, ma poi è stata messa da parte, nel senso che non è ciò che entra nell'uomo che contamina l'uomo, queste sono parole di Gesù, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo, quello ci deve far timore. Se lei vuole sapere ciò che nel mondo ebraico continua ad essere elemento di impurità, basta leggere il resoconto dettagliato del libro del Levitico. Ci sono interi capitoli dedicati alle norme di purità alimentare, anche perché le norme di purità alimentare continuano ad occupare oggi come oggi più del 30% della legislazione ebraica. Questo per dire l'importanza che queste norme hanno. Ovviamente dietro ci sono delle ragioni che loro tengono a sottolineare, però per noi cristiani tutto questo non ha un peso decisivo da un punto di vista morale. A noi ci viene chiesto invece, come dire, di stare molto attenti a ciò che facciamo uscire dal nostro cuore e nei confronti del cibo stare attenti alla moderazione da un lato e allo spreco dall'altro. Ecco, la sua domanda sicuramente apre anche uno squarcio su quella che è la prossima enciclica di Papa Francesco, che porta ad una riflessione anche nella nostra gestione nei confronti del cibo. Ecco, giovedì verrà presentata e avremo modo tutti di leggere quello che Papa Francesco evidenzierà in merito a questo. È anche uno dei temi che è oggetto di riflessione nella grande esposizione mondiale che si tiene proprio qui a due passi da dove io abito, no? All'Expo di Milano. Ecco, sono temi delicati, laddove il Signore ci invita a vigilare non è tanto a quello che mangiamo, ma a come gestiamo i frutti della creazione, a come ce ne nutriamo e come li condividiamo. Questo sì, questo deve essere oggetto della nostra attenzione. La ringrazio Giuseppe quindi per la sua domanda. Ecco, colgo l'occasione per salutare tutti quelli che sono intervenuti in questa seconda parte, perché ci hanno permesso di portare avanti la nostra riflessione e quindi di approfondire quanto ci siamo detti. Da Maria di Messina ad Alessandro di Firenze, alla signora che ha chiamato dalla Calabria, Ferdinando da Avellino, al signor Gildo e a Giuseppe da Palermo. Davvero grazie per i vostri interventi. E concludo chiedendo al Signore di aiutarci anche noi, come ha aiutato Pietro, a saper osare, a saper rischiare, abbandonandoci allo Spirito proprio per quel tratto di strada che lui illumina. Come diceva Don Alberione, il Signore non accende le lampadine tutte in una volta, ne accende una per volta e chiede a ciascuno di fare quel passo affidandosi al Signore per quel tratto di strada che vediamo illuminato dalla sua provvidenza. Un caro saluto a tutti e una benedizione a tutti voi ascoltatori. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.